Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. Siamo qui regolarmente in onda, nonostante per noi milanesi sia Sant'Ambrogio, ma siamo qua sempre impegnatissimi a darvi una mano a risolvere tutte le più tristi questioni economico-finanziarie. Di quale questione parliamo oggi? Una soluzione che ha interessato e sta interessando una platea molto vasta di lavoratori che vorrebbero andare in pensione. Si calcola che possono essere almeno 600.000 le persone delle quali vorremmo parlare oggi. Allora, andiamo con ordine. Una soluzione in due tappe: subito una circolare amministrativa dell'INPS, poi una norma per correggere le distorsioni create dalla legge. La legge in questione è la numero 122 di 2 anni fa, del 2010. Dovrebbe essere questa la soluzione che il ministro del welfare Elsa Fornero vorrebbe adottare per affrontare la vicenda delle ricongiunzioni onerose dei contributi versati a fondi diversi. Un problema che sta togliendo il sonno, come dicevamo, a centinaia di migliaia di lavoratori in procinto di andare in pensione, e quindi gli esodati sono in buona compagnia. Noi stiamo parlando stamattina di quei lavoratori che magari per un periodo hanno prestato servizio per la pubblica amministrazione, poi sono passati al privato e adesso vorrebbero andare in pensione mettendo insieme naturalmente tutti i contributi, ma questa ricongiunzione non è onerosa, è super onerosa. I tecnici della Ragioneria dello Stato, del Ministero del Welfare e dell'INPS sono al lavoro e vorrebbero capire anche loro come poter sanare questa situazione, che ovviamente viene percepita da tutti i lavoratori interessati come un'ingiustizia, e sembra che l'unica strada percorribile possa essere solo una: restringere la platea. Allora, noi stamattina vorremmo riaffrontare questo caso, cercare di capire da dove è iniziata questa confusione, in che situazione si trovano i lavoratori interessati in questa che sono caduti appunto in questa gabbia, che naturalmente viene percepita, dicevo prima, come un'ingiustizia dalla quale sembra molto difficile poter uscire fuori se non pagando ovviamente tanti soldi. Con un esperto del Sole 24 Ore, il dottor Fabio Venanzi, stamattina dottore commercialista, esperto di questioni previdenziali per Il Quotidiano. Dottor Venanzi, buongiorno e benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno a lei, Deborah, e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Le diamo il benvenuto perché è la prima volta che lei viene, appunto, è ospite della nostra trasmissione, per cui tra l'altro abbiamo scelto di farla inaugurare questo impegno con un tema davvero particolarmente complesso. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per i nostri ascoltatori. Vorrei che ci raccontaste i vostri casi, li commenteremo insieme per capire se le novità in arrivo aprono anche un barlume di speranza. Ci potete anche scrivere al 349-238-6666, è l'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Potete anche scriverci su Facebook, siamo al profilo salvadanaio-radio24. Prima di cominciare ad affrontare questo argomento, però, un'occhiata alla giornata di borsa. Nervosismo, oggi assale di nuovo gli investitori, e il nervosismo si concentra anche oggi in un copione che rileggiamo identico a quello di ieri, soprattutto su Piazza Affari. Milano sta perdendo un punto anche oggi, mentre Parigi scende dello 0,13%, Francoforte meno 0,10%, Londra meno 0,07%, anche la Spagna perde circa mezzo punto percentuale. Milano naturalmente paga la tensione politica italiana, e questo l'abbiamo visto anche sull'aumento che si è registrato di nuovo da ieri del differenziale fra Italia e Germania sul titolo decennale, sullo spread. Dopo aver toccato i 292 punti base nella giornata di martedì, ha ripreso a risalire, ieri si è rinfiammato di nuovo, stamattina ha ritoccato i 334, poi è sceso di nuovo leggermente, ma siamo a 329. A Milano pochi titoli positivi, in pregilo più 3,41 dopo la presentazione del piano industriale: Telecom più 0,50, Campari più 0,27, Parmalat più 0,11. I cali più forti: A2A, la utility milanese, la Lombarda meno 3%, Mediaset meno 2,56, Mediolanum meno 2,23, Finmeccanica meno 1,90. Scendono comunque complessivamente a causa dello spread, per effetto aumento dello spread, tutti i titoli del settore bancario, e tra questi troviamo appunto la Popolare dell'Emilia Romagna meno 1,81, Mediobanca meno 1,68, Unicredit meno 1,30%. Scende tutta la galassia Fiat, insomma oggi una giornata di nuovo negativa per Milano. Vedremo se nel pomeriggio complessivamente il mercato europeo si risolverà. con la pubblicazione del rapporto sull'occupazione per il mese di novembre relativo agli Stati Uniti. Lo conosceremo appunto alle 14.30. Il dato sulla disoccupazione della statistica di ottobre dava un 7,9%. Il consensus lo segnala come confermato questo dato. Vedremo appunto però, in realtà questo poi è l'elemento a cui si guarda di più, quanti nuovi posti di lavoro avrà creato l'economia americana in questo mese. Avremo anche il dato sulla fiducia dei consumatori del Michigan e alcuni dati sull'andamento del credito al consumo per il mese di ottobre. Direi che per quello che riguarda la borsa la possiamo lasciare qui e andiamo subito al tema di questa mattina. Allora, noi tra l'altro non abbiamo preparato una scheda come facciamo di solito, abbiamo invece stamattina fatto una cosa diversa, abbiamo rubato alcuni stralci, alcuni brani di un'inchiesta che su questo tema è stata condotta da una trasmissione televisiva molto nota che è Report e è andata in onda appunto diverse settimane fa, diversi mesi fa direi, perché è andata in onda in marzo, un'inchiesta di Bernardo Iovine, ve ne faccio sentire qualche parte, a cominciare da questa prima testimonianza di una lavoratrice di Sondrio che si è ritrovata proprio ad affrontare la questione della ricongiunzione onerosa dei propri contributi previdenziali. Sentiamo che cosa ha raccontato. Cioè lei ha lavorato sempre in comune? Sempre in comune. A un certo punto io ho deciso di andarmene, mi sono licenziata e ho ricominciato il giorno dopo presso una ditta privata. Una ditta privata. E faccio l'amministrativo di una ditta privata. Adesso che sto per andare in pensione, sì. All'Inps cosa gli hanno detto a Sondrio? All'Inps di Sondrio cosa mi hanno detto? Se vuoi ricongiungere i contributi devi pagare questa cifra. Queste qua sono le richieste che le ha fatto l'Inps? Sì. Cioè, quanto le ha chiesto? Allora, una prima volta mi ha chiesto 600.000 euro, c'è scritto qua 654,54,48 in un'unica soluzione, o in 190 rate vado a versare 909.000. Cioè questo gliel'ha inviato l'Inps di Sondrio, l'ha mandata a lei, sì, dice, se vuoi la pensione devi versare 910.000 euro? Esatto. Allora, abbiamo sentito un caso particolarmente clamoroso, probabilmente estremo, ma dottor Venanzi, per la verità che si sta trovando ad affrontare questa situazione non è che l'Inps gli abbia chiesto cifre molto inferiori, comunque siamo nell'ordine di 200-300 mila euro, delle situazioni veramente drammatiche anche per qualcuno che si vede sfuggire la pensione a meno che non riesca a tirar fuori tutti questi soldi. Vogliamo fare un po' di ordine, grazie al suo aiuto, ricordando le motivazioni per cui fu introdotta questa legge 122 di 2 anni fa, che ha eliminato dal 1 luglio proprio del 2010 la possibilità di trasferire nelle fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'Inps in modo gratuito la contribuzione versata ad altri fondi previdenziali, in particolar modo quelli del settore pubblico. Sì, guardi, uno dei motivi che indusse il legislatore dell'epoca a precludere la possibilità di trasferire i contributi dalle gestioni cosiddette sostitutive, come il caso che avete mandato in onda relativo all'ex dipendente pubblica, fu proprio quella di evitare che determinate categorie, come proprio le donne, potessero accedere alla pensione con dei requisiti anagrafici inferiori, perché all'epoca l'Inps pagava la pensione a 60 anni, mentre nell'INPDAP si conseguiva con almeno 61 e poi a regime si sarebbe arrivato a 65. A 65. Quindi questo obiettivamente è stato un motivo di non poco conto. Ma secondo lei, adesso poi ritorniamo appunto a spiegare tutto l'iter e tutte queste questioni, ma secondo lei sarebbe stato così facile che molte lavoratrici avrebbero deciso appunto di trasferire la loro posizione previdenziale maturata presso un ente pubblico al privato? Era così anche semplice farlo eventualmente qualora qualcuno fosse balzato in mente, dottor Venanzi? Guardi, era sufficiente che la dipendente si dimettesse dal pubblico impiego e quindi il giorno seguente, non avendo acquisito un diritto a pensione presso l'ex INPDAP, chiedesse il trasferimento di tutta la sua contribuzione presso l'INPS a titolo gratuito, ottenendo una pensione in determinati casi anche di importo superiore rispetto a quella INPDAP per le regole di calcolo vigenti nell'INPS rispetto che all'INPDAP. Il problema che doveva essere affrontato in realtà è che gli effetti che la norma ha prodotto poi in realtà come è stato detto più volte in sede parlamentare, ha in parte travalicato le intenzioni iniziali del legislatore stesso. Infatti, fino appunto alle situazioni che raccontiamo oggi di questi lavoratori che effettivamente hanno fatto delle scelte professionali del tutto legittime nel corso della loro vita e si ritrovano oggi appunto a non poter andare a pensione, non perché sono degli esodati, ma perché effettivamente appunto avendo dei versamenti contributivi sparpagliati un po' su fondi diversi possono appunto ricongiungerli, ma possono farlo appunto solamente a titolo oneroso, molto doloroso direi anche. Abbiamo sentito delle cifre assolutamente clamorose, dottor Venanzi, come si fa ad arrivare a chiedere ad un lavoratore per fare appunto questa unione di contributi versati prima al pubblico e poi a privato, a chiedere appunto delle cifre così, così enormi? Perché io posso anche comprendere la legittimità dell'onere, no? Però arrivare appunto a chiedere 600.000, 700.000 euro, ma anche fossero solamente, tra virgolette, 200.000, come si fa ad arrivare a cifre di questo tipo? Guardi, le dico, gli elementi che vengono presi a riferimento ai fini della determinazione dell'onere per il trasferimento dei contributi sono diversi. Entrano in gioco lo stipendio percepito, l'anzianità contributiva complessivamente posseduta dal soggetto interessato, quindi sia quella già accreditata presso l'istituto previdenziale, sia quella che viene definita in gergo in entrata, cioè quella che verrebbe trasferita da un altro istituto per sommarsi a quella già esistente. La collocazione temporale anche del periodo, cioè dove quei periodi si collocano nell'asse del tempo, e soprattutto il sistema di calcolo applicabile, perché sappiamo benissimo che l'attuale nostro ordinamento pensionistico prevede il sistema retributivo, meglio ex retributivo dopo l'ultima riforma, il decreto Salva Italia, il sistema misto e il sistema contributivo. Un altro aspetto, che è quello che poi in realtà ha determinato la maggior onerosità a cifre esorbitanti, è legato al fatto che i cosiddetti coefficienti di riserva matematica che venivano presi a riferimento prima della data di entrata in vigore della legge 122 del 2010 erano stati stabiliti da un decreto ministeriale del 27 gennaio del 64. Mentre oggi l'onere viene determinato sulla base di un decreto ministeriale del 31 agosto 2007. Capiamo bene che questa differenza di anni proprio, sono passati 43 anni, in 43 anni sono cambiate tante cose sia nella previdenza sia nella speranza di vita che certo, no, magari per spiegarlo, dottor Venanzi, mi scusi se la interrompo, qualche volta devo fare un po' delle operazioni di traduzione per i nostri ascoltatori. Questi coefficienti sono banalmente quei parametri che vengono utilizzati per convertire l'ultimo stipendio al primo assegno pensionistico, che chiaramente io l'ho ovviamente sintetizzata in maniera estrema questa definizione, però il tema è che chiaramente ciò che poteva valere per il 64, periodo in cui avevamo una determinata speranza di vita, non possono necessariamente più valere per oggi, per cui chiaramente questi valori devono essere attualizzati appunto alle esigenze anagrafiche di oggi, giusto? Sì, esatto, ecco. Infatti il problema è legato proprio a questo aspetto, che per tanti anni si è andato avanti con dei coefficienti comunque non aggiornati, non in linea a quella che era la speranza di vita, e poi in maniera secca si è deciso di applicarli dal 1 luglio senza poter tra l'altro dare possibilità alcuna a questi soggetti, perché non ci dimentichiamo che la legge di conversione entrò in vigore a fine luglio con effetto retroattivo al 1 luglio 2010, quindi comunque facendo terra bruciata attorno a determinati soggetti che speravano magari di poter uscire diciamo con un onere comunque contenuto. Il problema poi della riforma della legge 122 è che è stata seguita dalla riforma del sistema previdenziale approvata con il decreto legge 201, la cosiddetta riforma Salva Italia, che inasprendo ulteriormente i requisiti di accesso alla pensione di fatto ha in un certo qual modo aggravato la situazione di questi soggetti, perché non ci dobbiamo dimenticare che il decreto legge Salva Italia di fatto ha creato una generazione di soggetti troppo giovani per la pensione, certo, ma troppo anziani magari per poter ritrovare un nuovo impiego. Esattamente. Allora, dottor Venanzi, noi adesso ci fermiamo perché tra qualche istante abbiamo la prima pausa, peraltro adesso cercheremo anche di ripristinare la telefonata con lei perché la sentiamo con qualche disturbo e quindi appunto rifacciamo il collegamento telefonico e nella seconda parte della trasmissione cominceremo anche a sentire alcuni casi concreti dei nostri ascoltatori, iniziando da Daniela da Lecce, da Ferdinando dalla provincia di Napoli. Molti ci state telefonando e scrivendo questa mattina, ma sappiamo bene appunto che sia una questione che davvero, come sia una questione che non fa dormire molte persone. E tra l'altro, per chi non volesse sborsare tutti questi soldi per fare appunto queste ricongiunzioni che si chiamano onerose proprio per questo motivo, in realtà c'è un'alternativa per mettere insieme questi periodi contributivi. L'alternativa si chiama totalizzazione, però determina una consistente riduzione dell'importo dell'assegno mensile. Allora, come fare anche a capire se vale la pena imbarcarsi nell'onere appunto della ricongiunzione oppure così un po' lasciar perdere tutto e fare la totalizzazione? Come si fa a quantificare anche quanto si perde in termini di assegno? Lo spiegheremo fra qualche minuto. 800 24 00 24 per continuare a prenotare i vostri interventi, e tra poco Salva Danaio. Stanno arrivando naturalmente tanti messaggi, tante telefonate sul tema di questa mattina. Parliamo appunto delle cosiddette ricongiunzioni onerose, una condizione nella quale si stanno ritrovando in questo momento migliaia di lavoratori italiani che hanno lavorato un po' nel pubblico, un po' nel privato negli anni passati. Ora è giunto il momento di andare in pensione, cercano e pensano di poterlo fare senza alcun problema, di mettere insieme questi contributi, ma scoprono appunto che è particolarmente impegnativo dal punto di vista finanziario il ricongiungimento se si è lavorati appunto a lungo periodo, lavorata a lungo periodo nel pubblico e poi si è passati al privato. Tutto questo perché sono state stabilite delle novità da una legge del 2010, la 122, che è quella che ha praticamente innalzato l'età pensionabile delle donne nella pubblica amministrazione, facendolo passare da 60 a 65 anni, per evitare che ci fosse un travaso notevole di lavoratrici dal pubblico al privato per poter andare prima in pensione. Naturalmente si è pensato a questo blocco, che però si è riflesso negativamente su una platea molto più ampia di lavoratori. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande che noi stamattina stiamo rivolgendo al nostro esperto di questioni previdenziali per il Sole 24 Ore, il dottor Fabio Venanzi. Allora, abbiamo recuperato Daniela da Lecce. Daniela, buongiorno. Buongiorno, buongiorno signora Debora. Ci dica. Allora, parlo per mio fratello. La situazione è questa: lui è partito militare in accademia vincendo un concorso per pilota a 19 anni. Dopo 22 anni e mezzo lui ha lasciato l'aeronautica ed è andato in Alitalia. All'epoca, quando lui l'ha lasciata, bastavano i 18 anni per avere il minimo del trattamento pensionistico. Quindi passato dopo 22 anni e mezzo in Alitalia, e c'è stato 12 anni, è stato messo in cassa integrazione, come ben sappiamo, dalle vicende. Da di tutte Alitalia. Le vicende, sì. Benissimo, benissimo, in cassa integrazione. Adesso è già in mobilità, oltretutto mio fratello non sta molto bene e hanno chiesto la possibilità così di ricongiungere tanto i contributi, diciamo, INPS quanto quelli di Alitalia. Gli hanno fatto un conteggio che stiamo intorno ai 270-280 mila euro. Eccolo qua. Ora io mi chiedo, se una persona ha 280 mila euro... Magari la paga da sé la pensione. Ecco, esatto. Senta, tra l'altro voi avete fatto un calcolo appunto proprio per la ricongiunzione. Se vi è stato fatto anche un'opzione totalizzazione, quanto ci andrebbe a perdere in termini di assegno suo fratello? Io devo dire anche un'altra cosa, mi scusi. La legge del 2010. Mio fratello aveva fatto la domanda antecedente perché, se non vado errato, ecco, domanda che viene rigettata non si sa per quale motivo. Venanzi, abbiamo tra l'altro alzato il velo anche su un altro aspetto, perché ha fatto la domanda in tempi precedenti al varo di questa norma, una domanda che è stata rigettata. Probabilmente ci saranno state delle ragioni oggettive, ma insomma, cosa pensa di questo caso? Guardi, interessa, essendo un dipendente all'Italia, immagino che la posizione previdenziale dell'interessato fosse al fondo volo, che ha una disciplina tutta particolare, diciamo separata rispetto alla gestione del fondo pensione lavoratori dipendenti dell'INPS. Nella stessa situazione si trovano anche i soggetti iscritti al fondo elettrici o ai fondi telefonici, perché vengono trattati diversamente. Per quanto riguarda le cessazioni senza diritto a pensione per gli iscritti al fondo volo, era stata riaperta la possibilità di presentare domanda, che è scaduta nel novembre del 2010. Sicuramente però non so l'età dell'interessato, perché Daniela non ce l'ha. 52 anni. Allora, dovremmo vedere con la cassa integrazione se riesce a raggiungere i 40 anni di contributi, perché in quel caso la totalizzazione consentirebbe comunque l'accesso anticipato alla pensione, con una pensione di quando era militare in accademia, calcolata secondo le proprie regole, in quanto ci ha detto che ha oltre 22 anni, sì. Quindi 22 anni sono sicuramente un periodo sufficiente. Sufficienti per poter accedere alla pensione, naturalmente sempre al raggiungimento dell'età prevista per la vecchiaia. Una cosa che è sempre in corso nei lavori parlamentari è quella relativa, che ho detto prima, all'anticipo, che l'abrogazione, diciamo, o meglio, far rivivere le vecchie norme e quindi ricongiunzioni non onerose, oltre ai casi di trattamenti pensionistici, dovrebbero essere applicate anche ai casi di inabilità assoluta, certo, e permanente in favore degli eventuali superstiti dell'assicurato. Quindi potrebbe avere un ulteriore, un'ulteriore via di uscita qualora lo stato di salute venisse appunto acclarato che non gli consente evidentemente di continuare magari a riprendere anche a lavorare, quindi magari gli si può fare qualche sconto anagrafico, lei dice, Venanzi? Sì, no, di fatto dovrebbe essere ripristinata la possibilità di effettuare una ricongiunzione a titolo gratuito, e quindi trasferire o gli anni dell'accademia o gli anni di iscrizione al fondo volo nell'uno o nell'altra gestione previdenziale. Certo. Franca da Modena mi pare che avesse una domanda simile a quella dell'ascoltatrice precedente, nel senso che anche lei ha un figlio che ha fatto la domanda di ricongiunzione prima della legge del 2010? Franca? Pronto, sì. Sì, capisco che la mia richiesta può sembrare abbastanza, sì. Adesso è troppo presto forse. Comunque mio figlio ha lavorato prima sotto l'INPS, poi ha lavorato una decina d'anni all'INPDAP, e poi nel 2003 è tornato all'INPS, e nel 2005 abbiamo fatto la richiesta di spostare i contributi INPDAP nell'INPS direttamente, visto che poi la sua posizione almeno per allora era consolidata nell'INPS, ecco. Trasferimento di sede di lavoro, eccetera. L'ha potuto fare o no? Ho fatto la richiesta e mi hanno detto, l'avevo fatto la richiesta prima del 2010. Sì. Chiedevo se era valida ancora, quindi lui non ricade quindi in questa legge nuova del 2010, e quindi se lui questi diritti li ha acquisiti e se rimangono validi, oppure se lui, anche lui dopo deve fare tutti i conteggi che avete già detto, avete spiegato benissimo. Grazie così. Franca, andiamo a Venanzi. Tra l'altro io non riesco a sentire Mauro da Rimini, che è l'ultimo ascoltatore che era in linea, ma credo che avesse anche in questo caso una situazione simile al figlio di Franca: prima contributi INPDAP che ha ricongiunto con INPS, ora è ripassato ad INPDAP. Cosa deve fare? Ricongiungere di nuovo? Venanzi, 50 secondi di tempo per rispondere ad entrambi, se ce la fa miracolosamente. Sì, guardi, allora, la legge 322, che consentiva appunto il trasferimento gratuito dei contributi da una gestione previdenziale all'INPS per le domande fatte prima del 1 luglio 2010, è comunque ancora valida, ancorché l'interessato non abbia ricevuto il relativo provvedimento. Mi interesserei, se fosse l'interessato, presso l'INPS e l'INPDAP nel verificare perché ancora non è andata a buon fine. Esatto. Entro quanto devono rispondere questi qua? Perché devono aspettare due anni? Non c'è purtroppo un termine decadenziale, in quanto l'INPDAP, per poter emettere il provvedimento, necessita che gli enti dove l'interessato ha prestato servizio certifichino i servizi effettivamente. Certo, poi magari se il lavoratore non sta raggiungendo in tempi brevi l'età per andare in pensione, non si sentono neanche evidentemente nel dovere appunto di rispondere tempestivamente. Venanzi, la ringrazio molto per essere stato con noi. Guardi che la richiamo presto per questi casi. Grazie molte, grazie a tutti. Salva Danaio, a lunedì, buon weekend a tutti. Salvadanaio.